Lo spettacolo di una signora addolorata in vesti eleganti costituisce una patetica vista e un impressionante esempio della complessità introdotta nelle emozioni da un maturo stato della civiltà. Tra la pena di un 88 e quella di una signora dalle ampie maniche rigide, con una quantità di braccialetti ai due polsi, un cappello architettonico e una delicata fantasia di nastri che lunga serie di gradazioni. Nell'illuminata figlia della civiltà, il caratteristico abbandono del dolore è contenuto e variato nei modi più sottili, sì da offrire allo spirito analitico un interessante problema. Se col cuore oppresso e gli occhi mezzo accecati dalla nebbia delle lacrime, costei dovesse passare con piede malfermo attraverso una porta, potrebbe anche sgualcire le sue maniche rigide e la profonda consapevolezza di una tale possibilità produce una risultante di forze per cui ella prende una direzione che le permette appunto di evitare quello stipite. Accorgendosi che le sue lacrime cadono rapide ed abbondanti, ella scioglie i suoi nastri e li getta languidamente dietro le spalle, toccante gesto che indica, pur nella più cupa ristretta, la speranza di futuri momenti senza lacrime, nei quali i nastri del cappello recupereranno ancora una volta la loro attrattiva. Quando le lacrime cessano un poco, e arrovesciato il capo in una inclinazione che non danneggi il cappello, ella attraversa quel terribile momento in cui la pena, dopo di aver reso pesante ogni altra cosa, diventa essa medesima un peso. Eccola abbassare gli occhi pensosi sui braccialetti e aggiustarne i fermagli con una negligenza graziosamente studiata, che la potrà ricordare gradevolmente allorquando il suo spirito avrà recuperato uno stato di calma e di equilibrio. Mrs. Pallet sfiorò gli stipiti delle porte con molta grazia, tenuto conto della larghezza delle sue spalle. In quell'epoca una signora riusciva veramente ridicola ad un occhio esperto se non misurava circa un metro e mezzo tra una spalla e l'altra. Dopodiché sguinzagliò i muscoli del suo viso in cerca di nuove lacrime mentre s'avanzava nella sala dove era seduta Mrs. Glegg. «Ebbene, sorella, sei in ritardo. Che c'è di nuovo?» domandò un po' brusca Mrs. Glegg mentre si stringevano la mano. Mrs. Pallet si sedette, alzando con cura la parte di dietro del proprio mantello, prima di rispondere un «se n'è andata», in cui usava inconsapevolmente un'espressiva figura retorica. «Allora stavolta non si tratta dello specchio», pensò Mrs. Tulliver. «Morta ier l'altro», seguitò Mrs. Pallet, «le sue gambe erano grosse come tutto il mio corpo», soggiunse con profonda tristezza dopo una pausa. «Non so quante volte le hanno tolto l'acqua, tanta ce n'era. Dicono che ci sarebbe potuto nuotare a metterci, sì». «Bene, Sophie, allora è una liberazione che se ne sia andata, chiunque sia», disse Mrs. Glegg con la prontezza e l'eloquenza di uno spirito naturalmente chiaro e deciso. «Ma io, per parte mia, non riesco a capire di chi tu stia parlando». «Ma lo so ben io», disse Mrs. Pallet, sospirando e scuotendo il capo. «Di idropisie così non ce n'è un'altra in tutta la parrocchia. Lo so ben io chi era la vecchia Mrs. Sutton dei 20 Lands». «Bene, non era tuo parente, e nemmeno una conoscente di cui abbia mai sentito parlare», disse Mrs. Glegg, che sempre piangeva quel tanto che era giusto quando succedeva qualcosa a uno della parentela, ma in altre occasioni mai. «Tanto conoscente che ho persino visto le sue gambe quando erano come vesciche. Una vecchia signora che ha raddoppiato la sua fortuna parecchie svariate volte e ha tenuto fino all'ultimo la direzione della propria casa e aveva sempre la sua borsa con le chiavi sotto il cuscino. Di vecchie parrocchiane come quella ho paura che non ce ne siano molte. E dicono che ha preso tante medicine da riempirne un carro», osservò Mr. Pallet. «Ah!» sospirò Mrs. Pallet. «Aveva già avuto un altro disturbo molti anni prima di diventare idropica. I dottori non sapevano cavar fuori che cosa fosse e mi diceva, quando sono stata a vederla per l'ultimo Natale, mi diceva: Mrs. Pallet, se mai vi verrà l'idropisia, penserete a me. Così mi ha detto. soggiunse Missy Spalle, rimettendosi a piangere. Queste sono proprio state le sue parole. La seppelliranno sabato e Pallet è invitato al funerale. Sophie, disse Mrs. Glegg, incapace di trattenere più a lungo il suo ardore di sensati rimproveri. Sophie, mi meraviglio di te, che distruggi e ti rovini la salute per gente che non ti riguarda. Il tuo povero babbo non ha mai fatto così, e lo zio Francis nemmeno, e nessuno della famiglia che io sappia. Non ti addoloreresti di più se si venisse a sapere che il cugino Abbott è morto all'improvviso senza fare testamento? Mrs. Pallet non rispose. Dovette finir di piangere prima. Piuttosto lusingata che risentita di riceversi dei rimproveri perché piangeva troppo. Non è da chiunque essere capace di piangere tanto per un vicino che non gli ha lasciato nulla, ma Mrs. Pallet aveva sposato un possidente ed aveva tempo e denari bastanti per poter spingere sia il suo pianto che ogni altra sua manifestazione al più alto grado di eleganza. Però Mrs. Sutton non è morta senza fare testamento, osservò Mr. Pallet col confuso sentimento di star dicendo qualcosa che giustificasse le lacrime di sua moglie. La nostra è una parrocchia ricca, eppure dicono che non c'è nessun altro che possa lasciare tante migliaia come Mr. Sutton. E non ha fatto legati che valgano la pena, ha lasciato tutto in massa al nipote di suo marito. Allora non c'era un gran vantaggio ad essere così ricchi, disse Mrs. Glegg, se non aveva nessun altro che i parenti del marito a cui lasciare l'eredità. È una magra faccenda, quando non sa che è un simile motivo per fare delle privazioni. Ben inteso, non sarei mai io quella che vorrebbe morire senza lasciare più soldi e meglio impiegati di quanto la gente suppone. Ma è un magro affare quando devono uscire dalla propria famiglia. Sono sicura, sorella, disse Mrs. Pallet, che era abbastanza tornata in sé per potersi togliere il velo e ripiegarlo con cura, che è un tipo d'uomo simpatico quello a cui Mrs. Sutton ha lasciato il proprio denaro, perché soffre d'asma e va a letto tutte le sere alle 8. È stato lui stesso a raccontarmi queste cose con tutta franchezza, una domenica che è venuto nella nostra chiesa. Porta una pelle di lepre sul petto e ha la voce che gli trema, il vero tipo del gentiluomo. Gli ho raccontato che non passano molti mesi dell'anno senza che io sia nelle mani dei medici e lui mi ha risposto: Ah, oh, Mrs. Pallet, come vi capisco. Questo è quello che ha detto, precise parole. Ah! Sospirò Mrs. Pallet, scrollando il capo all'idea che erano poche le persone in grado di comprendere bene la sua esperienza di pozioni rose, di pozioni bianche, di sostanze forti in piccole boccette, di sostanze blande in grandi bottiglie, di liquidi in capsule da uno scellino e di gocce da 18 pence. Sorella, ora potrei andare a togliermi il cappello. Hai visto se la cappelliera è stata scaricata? Soggiunse rivolgendosi al marito. Mister Pallet, per una inesplicabile lacuna della memoria, se n'era scordato e si precipitò fuori con un rimorso di coscienza per rimediare alla dimenticanza. La porteremo di sopra, sorella, disse Mrs. Tulliver, desiderosa di uscire subito, per tema che Mrs. Glegg cominciasse a esporre i propri sentimenti sul fatto che Sophie era la prima Dodson che si fosse mai rovinata la salute con pasticci di medici. Mrs. Tulliver aveva una voglia matta di andar di sopra con la sorella Pallet e di esaminare a fondo la cuffia di lei prima che ella se la mettesse in capo e di discutere di mode in generale. Era questo uno dei punti deboli di Bessie, che suscitava il superiore compatimento di Mrs. Glegg. Tutto ben considerato, Bessie andava anche troppo ben vestita ed era troppo orgogliosa per fare indossare alla sua bimba le buone vesti che la sorella Glegg le regalava, estraendole dai giacimenti primevi della propria guardaroba. Mentre invece era peccato e vergogna andare ancora a comprare qualcosa di più che un paio di scarpe per il corredo di quella bimba. Nel caso particolare, però, Mrs. Glegg commetteva contro la sorella Bessie una ingiustizia tal quale, giacché Mrs. Tulliver aveva realmente durato degli sforzi cospicui per per indurre Maggie a portare un cappello di paglia di Livorno e un abitino di seta tinta ricavato da una veste di zia Glegg, ma i risultati erano stati tali che Mrs. Tulliver si era vista costretta a seppellirli nel fondo del suo cuore materno. Perché Maggie, dichiarando che la veste puzzava di cattiva tintura, aveva trovato modo di condirla di sugo insieme con l'arrosto della prima domenica in cui l'aveva indossata. E poi, una volta scoperto che il sistema funzionava, aveva messo sotto la pompa il cappello coi suoi nastri verdi in guisa di ridurlo ad una generica somiglianza con un formaggio alla salvia guarnito di lattuga appassita. Debbo subito aggiungere a giustificazione di Maggie che Tom l'aveva derisa per quel cappello. Anche zia Pallet regalava delle vesti, ma queste erano sempre abbastanza graziose per piacere a Maggie, non meno che alla mamma. Tra tutte le sorelle, Mrs. Tulliver preferiva senza dubbio la sorella Pallet e la preferenza era ricambiata, se non che Mrs. Pallet deplorava che Bessie avesse dei figli così cattivi e sgarbati. Avrebbe fatto per loro quanto sapeva e poteva, ma era peccato che non fossero buoni e carini come la bimba della sorella di Anne. Maggie e Tom, per parte loro, trovavano sopportabile zia Pallet, soprattutto perché non era zia Glegg. Tom, nel corso delle vacanze, si rifiutava sempre di andarle a fare visita più di una volta. In quell'unica volta, tanto l'uno quanto l'altro zio gli facevano un regalino, si intende. Ma da zia Pallet c'era una grande quantità di rospi da prendere a sassate presso il cancello della cantina, cosicché egli preferiva di andare a far visita a lei. Maggie rabbrividiva alla vista dei rospi e ne faceva sogni spaventosi. Ma le piaceva la tabacchiera musicale di zio Pallet. Infine, era pacifico tra le sorelle quando Mrs. Tulliver non era presente che il sangue Tulliver non si mescolava bene al sangue Dodson, che effettivamente i figlioli della povera Bessie erano dei Tulliver e che Tom, nonostante avesse il fisico dei Dodson, sarebbe probabilmente diventato uno di parer contrario come suo padre. Quanto a Maggie, era il ritratto di sua zia Moss, la sorella di Mr. Tulliver. Grossa donna ossuta che aveva fatto il più povero matrimonio possibile e non possedeva neppure un servizio di porcellana. E aveva un marito che stentava a pagare la pigione. Ma quando Mrs. Pallet si trovò sola con Mrs. Tulliver al piano di sopra, i commenti furono naturalmente tutti a carico di Mrs. Glegg, ed anzi esse si trovarono d'accordo che in confidenza era impossibile prevedere che razza di castigo sarebbe finita col diventare la sorella Jane. Ma il loro tête-à-tête fu troncato dalla comparsa di Mrs. Diane con la piccola Lucy. E Mrs. Tulliver dovette starsene in silenziosa agonia a vedere ravviare i biondi riccioli di Lucy. Era quasi inconcepibile che Mrs. Diane, la più piccola e la più scialba di tutte le Miss Dodson, fosse riuscita ad avere quella bambina, che poteva benissimo essere presa per la figlia di Mrs. Tulliver. E Maggie, quando era accanto a Lucy, appariva sempre due volte più nera del solito. E così fu anche quel giorno, quando ella e Tom rientrarono dal giardino con il babbo e lo zio Glegg. Maggie aveva gettato via il suo cappello, molto alla Carlona, e appena entrata, coi suoi capelli in disordine e senza riccioli, corse subito incontro a Lucy, che se ne stava presso la madre. Certo, il contrasto tra le due cugine era notevole e per un occhio superficiale risultava tutto svantaggio di Maggie, quantunque un conoscitore avrebbe potuto scorgere in lei degli accenni più ricchi di promesse per il tempo della maturità che la gentile perfezione di Lucy. Era come il contrasto tra un giovane cane rozzo e nero e un micino bianco. Lucy sporse al bacio la sua graziosa boccuccia a bottoncino di rosa. Tutto in lei era grazioso. Il piccolo collo rotondo con la collana di corallo, il piccolo naso diritto e niente affatto camuso, i piccoli sopraccigli chiari, solo un po' più cupi che i riccioli e ben assortiti, con gli occhi color nocciola che si levavano con schiva contentezza verso Maggie, più alta di tutta la testa. Sebbene maggiore di appena un anno, Maggie guardava sempre Lucy con delizia. Amava fantasticare di un mondo dove la gente non diventasse mai più grande che i bambini della loro età, e ne immaginava la regina del tutto simile a Lucy, con una piccola corona sul capo ed un piccolo scettro nella mano. Se non che quella regina era proprio lei, Maggie, nella figura di Lucy. «Oh, Lucy!» gridò dopo averla baciata. «Tu rimarrai con Tom e con me, non è vero? Oh, dalle un bacio, Tom!» Anche Tom si era avvicinato a Lucy, ma non per baciarla, no. Le si era accostato con Maggie perché, tutto sommato, questo gli pareva più semplice che domandare «Come state?» a tutte quelle zie e quegli zii. Se ne rimaneva lì, senza guardar nulla in particolare, con quel rossore, quell'aria impacciata e quel mezzo sorriso che è comune ai ragazzi timidi quando si trovano in compagnia. Proprio come fossero venuti al mondo per sbaglio e avessero trovato tutta la gente così svestita da sentirsi imbarazzati a guardarla. «Ehi, ehi!» disse zia Glegg con voce alta e solenne. «E da quando in qua i bambini e le bambine entrano in una stanza senza badare ai loro zii e alle loro zie? Non usava così quando io ero bambina.» «Andate a parlare alle zie e agli zii, cari», disse Mrs. Tulliver con uno sguardo inquieto e melanconico. Avrebbe voluto ordinare sottovoce a Maggie di andare a ravviarsi i capelli. «Ebbene, come state? Spero che siate dei bravi bambini, vero?» disse zia Glegg nello stesso tono alto e solenne, stringendo loro le mani con quei suoi grossi anelli che facevano male e baciandoli sulle gote, cosa da loro pochissimo desiderata. «Sulla testa, Tom, sulla testa! I ragazzi che vanno in collegio debbono tenere la testa alta. Guardami in faccia, su!» A giudicare dalle apparenze, Tom avrebbe fatto a meno di questa gioia, tanto è vero che tentava di ritirare la propria mano. «Mettiti i capelli dietro gli orecchi, Maggie, e rialzati la veste sulle spalle.» Zia Glegg parlava sempre con loro in quel tono alto e solenne, come se li credesse sordi o quantomeno un po' scemi. Era un modo, secondo lei, di far sì che si sentissero delle creature responsabili e poteva riuscire un freno salutare alle cattive tendenze. I bambini di Bessie erano tanto viziati e avevano bisogno di qualcuno che facesse loro sentire i propri doveri. «Bene, miei cari», disse zia Pallet con voce misericordiosa, «voi crescete straordinariamente in fretta. Temo che questa crescita sia superiore alle loro forze», soggiunse, guardando al di sopra delle loro teste con melanconica espressione verso la loro mamma. «Credo che la bambina abbia troppi capelli. Al tuo posto glieli avrei alleggeriti e tagliati più corti. Non mi stupirei che fosse questo che le rende la pelle così scura. Non lo credi anche tu, sorella Diane?» «Chi lo sa? Credo anch'io, sorella», disse Mrs. Diane stringendo di nuovo le labbra e guardando Maggie con occhio critico. «No, no», disse Mr. Tulliver, «la bambina è abbastanza sana, non c'è nulla che le faccia male. C'è il frumento rosso come c'è quello bianco, per dire, e certuni preferiscono il grano scuro. Ma forse sarebbe bene che Bessie facesse tagliare i capelli della bambina perché stessero più compatti.» Una terribile decisione stava maturando in petto a Maggie, ma era tenuta in sospeso dal desiderio di sapere se zia Diana avrebbe lasciato rimanere Lucy. Zia Diane non permetteva quasi mai che Lucy venisse a trovarli. Dopo vari motivi di rifiuto, Mrs. Diane fece appello a Lucy medesima. «Tu non vorresti restare qui senza la tua mamma, né vero, Lucy?» «Ma sì, mamma, per favore!» fece Lucy timidamente, e perfino il piccolo collo le si colorì tutto di un rosa vivo. «Ben detto, Lucy, lascia che si fermi, Mrs. Diane, lascia che si fermi!» disse Mr. Diane, uomo grosso, dall'espressione sveglia, un tipo fisico che è dato di incontrare in tutte le classi della società inglese. Testa calva, favoriti rossi, fronte ampia e, in generale, una solidità senza gravezza. Potete trovare dei nobili che somigliano a Mr. Dian e potete trovare dei droghieri o degli operai a giornata che somigliano a lui, ma la vivacità dei suoi occhi bruni era meno comune che il loro disegno. Teneva stretta nella mano una tabacchiera e di quando in quando scambiava una presa con Mr. Tulliver, la cui tabacchiera era soltanto guarnita d'argento, sicché era divenuto fra di loro uno scherzo abituale che Mr. Tulliver chiedesse di scambiare anche le tabacchiere. La tabacchiera di Mr. Diane gli era stata regalata dai capi della ditta a cui egli apparteneva, allorquando gli avevano concessa un'interessenza sugli affari. Come riconoscimento dei suoi notevoli servizi quale gerente. Nessuno a St. Ogg's godeva maggior considerazione che Mr. Diane, e certuni erano perfin del parere che Mrs. Susan Dodson, la quale passava per aver fatto il peggior matrimonio di tutte le sorelle Dodson, poteva un giorno o l'altro andare in giro con una carrozza migliore e vivere in una casa anche migliore che la sorella Pallet. Chissà mai dove sarebbe arrivato un uomo che aveva messo lo zampino in una grande azienda di mulini e compagnia di armatori come la Guest & Co., con delle interessenze bancarie per soprammercato. E Mrs. Diane, secondo che osservavano le sue intime amiche, era abbastanza ambiziosa e tenace, non avrebbe certo lasciato che il marito, per difetto di sprone, facesse meno strada nel mondo. Maggie, disse Mrs. Tulliver, chiamandola con un cenno e parlandole all'orecchio, non appena la questione della permanenza di Lucy fu sistemata, va a ravviarti i capelli, va, che fai vergogna. Te l'avevo detto di non entrare qui senza prima essere passata da Marta. Lo sai che te l'avevo detto. Tom, vieni con me, mormorò Maggie tirandolo per la manica mentre gli passava accanto. E Tom la seguì abbastanza di buona voglia. Vieni di sopra con me, Tom, gli sussurrò quando furono fuori dalla porta. C'è qualche cosa che desidero fare prima di colazione. Non c'è più tempo di far nessun gioco prima di colazione, disse Tom, la cui immaginazione non tollerava altri progetti intermedi. Oh sì, per quel che dico io c'è tempo. Su, vieni, Tom. Tom seguì Maggie al piano di sopra, in camera della mamma, e la vide andar subito ad un cassetto donde strasse un grosso paio di forbici. Perché farne, Maggie? Disse Tom, sentendo destarsi la curiosità. Per tutta risposta, Maggie si afferrò alle ciocche anteriori e se le tagliò, pari pari, a mezza altezza della fronte. Corpo dei miei bottoni, Maggie! Questa te la faranno pagar cara, esclamò Tom. Faresti meglio non tagliartene altri. Trac! Continuarono le grosse forbici. Trac! Mentre Tom stava parlando. Trac! Ed egli non poteva difendersi dal trovare il gioco piuttosto divertente. Maggie avrebbe preso un'aria tanto bizzarra. Su, Tom, tagliameli tu di dietro, disse Maggie, eccitata dalla sua stessa audacia e impaziente di terminare l'impresa. Te la faranno pagar cara, lo sai, disse Tom, scrollando il capo a mo' di ammonimento ed esitando un poco a prendere le forbici. Oh, non ci pensare, fa presto. Disse Maggie pestando un pochino i piedi. Le sue guance erano di fiamma. Le nere ciocche erano così folte che nessuna tentazione poteva essere più forte per un ragazzo che già avesse gustato il piacere proibito di tagliare la criniera d'un puledro. Parlo per quelli che conoscono la soddisfazione di far correre un paio di forbici dentro una massa di capelli di conveniente resistenza. Un delizioso e cricchiante taglio, e poi un altro ancora, e le ciocche posteriori caddero pesantemente sul pavimento. E Maggie si trovò tosata in un modo disuguale e tutto a frastagli, ma con una sensazione di leggerezza e di libertà, come se da un bosco fosse emersa nell'aperta pianura. Oh, Maggie, disse Tom, saltellandole intorno e dandosi delle manate sui ginocchi dal gran ridere. Corpo dei miei bottoni, che aria buffa che hai. Guardati nello specchio. Sembri quell'idiota a cui buttiamo i gusci di noce a scuola. Maggie provò un'angoscia inattesa. Sulle prime ella non aveva pensato che a liberarsi da quei noiosi capelli e dei noiosi commenti che ne nascevano, e anche un poco al trionfo che avrebbe riportato sulla mamma e sulle zie con quel suo modo di agire così risoluto. Non aveva affatto la pretesa che le sue chiome apparissero belle, questo era fuori di questione. Desiderava soltanto che la gente la considerasse una piccola bambina sveglia e non le trovasse da ridire. Ma ora, quando Tom ebbe cominciato a ridere di lei e a dirle che somigliava all'idiota, la cosa prese tutt'altro aspetto. Si guardò nello specchio. E mentre Tom seguitava a ridere e a battere le mani, le sue guance accese cominciarono a impallidire e le sue labbra a tremare un poco. Oh, Maggie, ora ti toccherà di scendere per la colazione, disse Tom. Che buffa! Non ridere di me, Tom, disse Maggie con voce irritata, pestando i piedi con un collerico scoppio di lacrime e dandogli uno spintone. Eccolo dunque, l'acciarino, disse Tom. E allora perché li hai tagliati? Io scendo, sento già l'odore della colazione che sta arrivando in tavola. E si precipitò di sotto, abbandonando la povera Maggie a quell'amaro senso dell'irrimediabile che era quasi un'esperienza quotidiana per la sua piccola anima. Ora che a cose fatte s'avvedeva fin troppo chiaramente che era stata una vera pazzia e che sui suoi capelli adesso le sarebbe toccato di sentirsene dire e di doverci ripensare più che mai. Maggie, in vero, si buttava a tutte le sue azioni con appassionato abbandono per poi vedere in seguito non pure le loro conseguenze, ma anche ciò che sarebbe accaduto se esse non fossero state compiute. E tutto ciò con i particolari esagerati da una fervida immaginazione. Tom non cadeva mai nelle pazzie di Maggie, possedeva un mirabile e istintivo discernimento di ciò che gli sarebbe tornato di vantaggio o di svantaggio. E così, per quanto fosse molto più caparbio ed inflessibile di Maggie, non capitava quasi mai che sua madre dovesse dargli del discolo. Ma se Tom commetteva un errore di quella specie, vi si incaponiva e lo difendeva. Egli non l'aveva fatto apposta. Se spezzava la frusta del calessino del babbo facendola schioccare contro il cancello, non ce ne poteva nulla, era la frusta che non doveva impigliarsi nei cardini. Se Tom Tulliver frustava un cancello, era convinto non già che il frustar cancelli fosse un atto ammissibile per tutti i ragazzi, ma che per lui, Tom Tulliver, era ammissibile di frustare quel determinato cancello e pertanto non si sentiva certo disposto a pentirsene. Ma Maggie, rimasta lì a piangere davanti allo specchio, sentiva l'impossibilità di scendere a colazione e di sottoporsi ai severi sguardi e alle severe parole delle zie, mentre Tom e Lucy e Marta, che serviva a tavola, e forse anche il babbo e gli zii avrebbero riso di lei, perché se Tom l'aveva derisa, naturalmente anche tutti gli altri avrebbero fatto altrettanto. E se invece ella avesse lasciato in pace i propri capelli, si sarebbe potuta sedere con Tom e Lucy ed avrebbe avuto il pudding di albicocche e la torta alla crema. Che le rimaneva se non di singhiozzare? Si sedette tra le sue nere ciocche, affranta e disperata come aiace tra le pecore sgozzate. Molto insignificante, forse, parrà questa angoscia ai mortali provati dagli anni, che hanno da pensare alle scadenze di Natale, ai defunti amori, alle amicizie spezzate. Ma per Maggie non era meno amara, anzi, lo era forse più di quelli che noi amiamo chiamare, per antitesi, i reali dolori dell'età matura. Ah, figliolo, ne avrai anche tu col tempo dei veri dolori da crociarti. E la consolazione che quasi tutti ci siamo sentiti somministrare durante l'infanzia e che abbiamo ripetuta agli altri bambini una volta che siamo diventati adulti. Tutti abbiamo singhiozzato con tanto strazio, diritti sulle nostre piccole gambe nude sopra le piccole scarpette, quando abbiamo perduto di vista la mamma o la governante in qualche luogo sconosciuto. Ma non sappiamo più rievocare l'amarezza di quel momento e piangerne come facciamo nel ricordare le sofferenze di 5 o 10 anni or sono. Ciascuno di questi momenti dolorosi ha lasciato la sua traccia e vive ancora in noi, ma quelle tracce si sono indissolubilmente mescolate nel più saldo tessuto della giovinezza e della maturità. E così avviene che noi possiamo guardare ai dispiaceri della nostra infanzia con un sorriso incredulo per l'irrealtà della loro pena. Chi mai è in grado di ricostruire l'esperienza della sua infanzia, non soltanto nel ricordo di ciò che ha fatto e di ciò che gli è successo, di ciò che gli piaceva o dispiaceva quando era in sottanello o in calzoncini, ma con intima penetrazione, con ravvivata coscienza di ciò che sentiva allora, quando il tempo era così lungo dall'una all'altra mezz'estate? Di ciò che sentiva quando i suoi compagni lo escludevano dal gioco se tirava una palla falsa per semplice ostinazione, o quando in qualche piovoso giorno di vacanza non sapeva come svagarsi e dall'ozio scivolava alle malefatte, dalle malefatte all'insolenza, dall'insolenza alla collera, o quando la mamma si rifiutava assolutamente di fargli fare un abito a code per quel semestre, mentre tutti gli altri bambini della sua età avevano già le code. Certo, se potessimo riandare quell'antica amarezza e le confuse congetture e la strana e inadeguata concezione della vita che accrescevano l'intensità di quell'amarezza, non riusciremo più a scherzare sui malumori dei nostri bimbi. Miss Maggie, dovete scendere subito, disse Kezia, entrando a precipizio nella camera. Oh, povera me! Cosa vi è saltato di fare? Non ho mai veduto un simile orrore. Smettila, Kezia, disse Maggie rabbiosa. Va via! Ma vi ripeto che dovete scendere subito, miss. È la mamma che lo vuole, disse Kezia, accostandosi a Maggie e prendendola per mano a rialzarla dal pavimento. Va via, Kezia, non ho voglia di mangiare, disse Maggie resistendole. Non scenderò. Oh, bene, non posso fermarmi qui, devo andare a servire in tavola, disse Kezia uscendo. Maggie, scioccherella, cantilenò Tom facendo capolino nella camera 10 minuti dopo. Perché non vieni a colazione? C'è un monte di cose buone, la mamma dice che devi venire subito. Cos'hai da piangere, piccola scema? Oh, che cosa orribile. Tom era così ingiusto e incomprensivo. Se fosse stato lui a piangere, accoccolato sul pavimento, anche Maggie si sarebbe messa a piangere. E poi c'era la colazione così buona e lei aveva tanta fame. Era una vera crudeltà. Ma Tom non era del tutto ingiusto, non era proclive alle lacrime e non credeva che la pena di Maggie dovesse rovinargli la sua prospettiva di dolcezze. Peraltro, le si avvicinò, accostando il proprio capo al suo, e disse con voce più sommessa e consolatrice: Dunque, non vuoi proprio venire, Maggie? Devo portarti un po' di pudding quando avrò avuto il mio? E una focaccina e tutto quanto? Sì! Disse Maggie, cominciando a trovare la vita un poco più sopportabile. Benone, disse Tom andandosene. Ma alla porta si voltò e disse: Però faresti meglio a venire, lo sai. Per frutta, sai che ci sono le noci col vino di primule. Le lacrime di Maggie erano cessate. Quando Tom l'ebbe lasciata, lo sguardo le si fece pensieroso. La bontà del fratello aveva smussato le punte più vive della sua sofferenza e le noci col vino di primule cominciavano ad esercitare la loro legittima influenza. Si levò lentamente di tra le sue ciocche sparse. E lentamente cominciò a scendere le scale. Poi si fermò, appoggiando una spalla contro lo stipite della porta della sala da pranzo e approfittando dei momenti in cui essa era socchiusa per lanciare delle occhiate in sala. Vide Tom e Lucy e tra loro due una sedia vuota. E poi su un tavolo a parte c'erano le focacce. Era troppo. Si infilò in sala dirigendosi verso la sedia vuota. Ma non si era ancora seduta, che già ne era pentita e desiderava tornare indietro. Al vederla, Mrs. Stalliver, sua madre, mandò un piccolo grido «Ah!» e provò un tale scombussolamento che lasciò cadere nel piatto il pesante mescolo da sugo, con i più disastrosi effetti per la tovaglia. Kezia, infatti, non aveva tradito il motivo per cui Maggie si rifiutava di scendere, parendole fuori di luogo di dare alla padrona un simile colpo nel momento in cui trinciava. E Mrs. Stalliver aveva pensato non si trattasse che di un attacco di cattiveria che portava seco il proprio castigo, privando Maggie di metà della sua colazione. Il grido di Mrs. Stalliver fece convergere tutti gli occhi sullo stesso punto e le guance e gli orecchi di Maggie cominciarono a infuocarsi, mentre zio Glegg, un vecchio signore bonario e canuto, disse: Oi, oi, oi, oi, oi! E chi è quella ragazzina? Guarda un po', che io non la conosco. È una ragazzina che avete raccolta per via, Kezia? Come? È andata lei stessa a tagliarsi i capelli? Disse sottovoce Mr. Tulliver a Mr. Dian, ridendo con molto spasso. Avete mai conosciuta una bricconcella come quella lì? signorina, ti sei fatta una cera molto buffa, disse zio Pallet. Che forse in vita sua non aveva mai fatto un'osservazione di effetto così straziante. Oh, boh, che vergogna! Disse zia Glegg nel suo più acuto e severo tono di rimprovero. Le bambine che si tagliano i capelli dovrebbero essere frustate e messe a pane e acqua e non venire a sedersi con le zie e gli zii. Disse zio Glegg, immaginandosi di dare un accento scherzoso alla propria dichiarazione. Bisogna mandarla in prigione, dico io, e là le taglieranno anche gli altri capelli per pareggiarglieli. Somiglia più che mai ad una zingara, disse zia Pallet in tono di compassione. È una vera disgrazia, sorella, che la bimba sia così bruna e il ragazzo invece tanto biondo. Ho paura che nella vita le porterà del danno l'essere così bruna. È una cattiva bambina che spezzerà il cuore di sua madre, disse Mrs. Tulliver con le lacrime agli occhi. Maggie aveva l'aria di starsene lì ad ascoltare quel coro di rimproveri e di canzonature. Il suo primo impulso di collera le diede una provvisoria forza di sfida. Anzi, Tom pensò che a prendere quell'atteggiamento sfrontato dovesse confortarla la recente apparizione del budino e della focaccia. In base a tale impressione le mormorò: «Ahi, Maggie, te l'avevo detto che l'avresti pagata!» Credeva così dimostrarle sia amico. Ma Maggie era convinta che gli godesse della sua umiliazione. Quella fragile forza di sfida l'abbandonò in un istante, il cuore le si fece grosso e, saltando giù dalla sedia, corse dal babbo, nascose il viso nelle spalle di lui e proruppe in violenti singhiozzi. «Su, su, piccina mia», disse il padre accarezzandola e abbracciandola, «non ci pensare, hai fatto benissimo a tagliarteli se ti davano noia. Non pianger più. Il babbo prenderà le tue parti.» Deliziose parole di tenerezza. Maggie non dimenticò mai nessuno di quei momenti in cui il padre aveva preso le sue parti. Se li chiuse in cuore, ripensava ad essi molti anni dopo, quando tutti gli altri dicevano che il babbo aveva agito molto male coi suoi figli. «Come la guasta tuo marito, questa bambina?» disse Mrs. Glegg a Mrs. Tulliver in un marcato a parte. «Sarà la sua rovina se tu non stai in guardia. Mio padre non avrebbe mai allevato così i suoi figli, quando anche non fossimo stati la famiglia che siamo.» I dispiaceri domestici di Mrs. Tulliver parevano in quel momento aver toccato il punto da cui comincia l'insensibilità. Ella non si diede per intesa dell'osservazione della sorella, anzi buttò indietro i nastri della cuffia e con muta rassegnazione servì il pudding. La completa liberazione venne per Maggie con le frutta, perché ai bambini, visto che la giornata era così mite, fu dato il permesso di portarsi le noci e il vino nel chiosco d'estate, ed essi scapparono tra i cespugli germoglianti del giardino con una alacrità da bestioline sfuggite di sotto il cristallo di una lente. Mrs. Tulliver aveva le sue ragioni speciali per dare questo permesso. Terminato il pranzo, lo spirito di tutti era più libero. Era proprio il momento buono per comunicare i progetti di Mr. Tulliver relativi a Tom. Tanto meglio quindi che Tom non fosse presente. I ragazzi avevano l'abitudine di sentir parlare di loro liberamente, come uccelletti che non capissero nulla, quantunque allungassero il collo ad ascoltare. Ma in quell'occasione Mrs. Tulliver manifestava un insolito riserbo perché, di recente, aveva avuto la prova che il dover andare a scuola da un pastore era un punto doloroso per Tom, che lo considerava come dover andare a scuola da una guardia di pubblica sicurezza. Mrs. Tulliver sospirava al pensiero che suo marito avrebbe fatto ciò che voleva, che ne dicesse la sorella Glegg o anche la sorella Pallet. Ma almeno, se le cose andavano male, non avrebbero mai potuto dire che Bessie si era piegata alle pazzie del marito senza nemmeno farne parola coi propri congiunti. «Mr. Tulliver», disse, interrompendo la conversazione del marito con Mr. Dean, «ecco il momento di esporre alle zie e agli zii dei bimbi ciò che conti di fare per Tom, no?» «Sta bene», disse Mr. Tulliver piuttosto secco, «non ho alcuna difficoltà di comunicare a chi che sia quel che intendo fare di lui. Ho stabilito», soggiunse guardando Mr. Glegg e Mr. Dean, «ho stabilito di mandarlo da Mr. Stelling, un pastore, giù a Kings Lorton, un individuo straordinariamente istruito, a quel che ne posso capire, che lo metterà al corrente di una quantità di cose.» Corse tra gli astanti un mormorio di sorpresa, quale tutti avrete potuto avvertire in una congregazione di campagna, quando s'ode dal pulpito un'allusione agli affari dei giorni feriali. Tanto per le zie quanto per gli zii riusciva stupefacente di vedere un pastore introdotto nelle sistemazioni familiari di Mr. Tulliver. Quanto allo zio Pallet, sarebbe stato appena più confuso se Mr. Tulliver avesse detto che voleva mandare Tom dal Lord Cancelliere. Già che zio Pallet apparteneva a quella classe ormai estinta dei piccoli possidenti inglesi che, vestiti di buoni panni, pagavano imposte e tasse elevate, andavano in chiesa, mangiavano un pranzo specialmente squisito alla domenica, senza sognarsi che la Costituzione inglese della Chiesa e dello Stato ha origini un po' più facilmente rintracciabili che quelle del sistema solare e delle stelle fisse. Triste ma vero, Mr. Pallet aveva le idee più confuse circa un vescovo, da lui creduto una specie di baronetto che poteva essere o anche non essere un ecclesiastico. E siccome il rettore della sua parrocchia era uomo di cospicua famiglia e di grande fortuna, l'idea che un ecclesiastico potesse fare il maestro di scuola era troppo remota dall'esperienza di Mr. Pallet, perché egli potesse agevolmente concepirla. Capisco che nei nostri tempi illuminati riesca difficile di credere all'ignoranza di Mr. Pallet, ma si rifletta i notevoli risultati di una grande facoltà naturale posta in circostanze favorevoli. E zio Pallet aveva una grande facoltà naturale per l'ignoranza, fu il primo a dare sfogo al proprio stupore. Ma perché vuoi mandarlo da un pastore? Domandò con un attonito ammiccamento, guardando Mr. Glegg e Mr. Dean per vedere se davano qualche segno di comprensione. Com'è? Beh, ma perché i pastori sono i migliori maestri, per quanto ne so, disse il povero Mr. Tulliver, che nel labirinto di questo mondo imbarazzante si attaccava a qualunque filo con grande prontezza e tenacia. Jacobs, il maestro dell'Accademia, non è pastore e ha ottenuto pessimi risultati col ragazzo. E allora ho deciso che se lo mando di nuovo a scuola sarà da qualcuno di molto diverso da Jacobs. E questo Mr. Stelling, per quanto ne so, è proprio l'uomo che fa per me. Così ho intenzione che mio figlio vada da lui per la mezz'estate, concluse in tono deciso, picchiando sulla tabacchiera e pizzicando una presa. Ti farà un'enorme zuppa al semestre, Tulliver? Gli ecclesiastici in generale hanno delle grandi idee, disse Mr. Dean, aspirando vigorosamente una presa, come faceva sempre quando voleva serbare un'attitudine neutrale. Come? E credi che quel pastore gli insegnerà a conoscere a prima vista un buon campione di frumento vicino Tulliver? Disse Mr. Glegg, a cui piaceva di fare dello spirito e che, ritiratosi dagli affari, credeva gli fosse non soltanto lecito, ma conveniente di considerare le cose da un punto di vista giocoso. Ecco, vedete, per Tom io ho tutto un piano nella testa, disse Mr. Tulliver facendo una pausa dopo questa dichiarazione ed alzando il bicchiere. Bene, se mi è concesso di parlare, cosa che succede di rado, disse Mrs. Glegg con un accento alquanto amaro, io vorrei sapere che vantaggio può venire al ragazzo da un'educazione superiore alla sua fortuna. Ecco, disse Mr. Tulliver rivolgendosi non già a Mrs. Glegg, bensì alla parte maschile del suo uditorio. Vedete, io ho deciso di non instradare Tom nel mio mestiere. Da un pezzo ho le mie idee in proposito e me le sono messe in mente dopo quel che ho veduto di Garnet e di suo figlio. Ho intenzione di metterlo in qualche affare dove possa entrare senza capitali e voglio dargli un'educazione che lo tenga a livello degli avvocati e della gente di legge, di modo che gli possa di tanto in tanto fornirmi qualche schiarimento. Mrs. Glegg emise una specie di lungo suono gutturale a labbra chiuse e sorrise con un misto di pietà e di disprezzo. Sarebbe molto meglio che certa gente, disse dopo quell'introduzione, lasciasse stare in pace gli avvocati. Dirige dunque una scuola di grammatica come quella di Market Bewley, il vostro pastore? Domandò Mr. Dean. No, niente di tutto questo, disse Mr. Tulliver. Egli non vuol prendere più di due o tre scolari in modo da avere più tempo per seguirli, sapete? Ah, così l'educazione è più presto data. Non è possibile che si imparino tante cose in una volta quando si è in troppi, disse zio Pallet, sentendo che stava ormai per penetrare nel difficile argomento. Ma allora vorrà essere pagato di più, ho ben paura, disse Mr. Glegg. Un centinaio all'anno pulito pulito, ecco tutto, disse Mr. Tulliver, con un certo orgoglio per il suo brillante modo d'agire. Ma è poi anche un investimento, lo capite? L'educazione sarà per Tom un vero capitale. La cosa non è poi mal ragionata, disse Mr. Glegg. Bene, bene, vicino Tulliver, forse avete ragione, forse avete ragione. Perduto il fondo e speso il capitale, un poco di istruzione non fa male, dice il detto. Ricordo di aver veduto questi due versi scritti su una finestra a Buxton. Ma per noi che non abbiamo avuto istruzione è meglio conservare il capitale, vicino Pallet? Mr. Glegg si fregava i ginocchi con un'aria molto compiaciuta. Mr. Glegg, mi meraviglio di te, disse la moglie. Questo è molto sconveniente per un uomo della tua età e della tua condizione. Che c'è di sconveniente, Mrs. Glegg? Domandò il marito, Mr. Glegg, ammiccando scherzosamente alla compagnia. Il modo come ho indossato il mio nuovo abito turchino? La tua balordaggine mi fa pena, Mr. Glegg. Dico che è sconveniente che tu stia a fare dello spirito quando vedi i tuoi parenti correre a capofitto verso la rovina. Oh, se volete alludere a me, disse Mr. Tulliver, notevolmente piccato, non c'è bisogno che vi scomodiate ad impensierirvi sul conto mio. Posso benissimo regolare i miei affari senza disturbare nessuno. Perbacco, interruppe Mr. Dean, introducendo giudiziosamente una nuova idea. Ecco, adesso che ci penso, qualcuno mi ha detto che Wakem voleva mandare suo figlio, quel ragazzo deforme, da un pastore. Non è vero, Susan? E si volse alla moglie. Non potrei garantire, in verità, disse Mrs. Dean, stringendo di nuovo le labbra. Mrs. Dean non era donna da prender parte ad una scena in cui volavano i proiettili. Beh, disse Mr. Tulliver, parlando sempre più animatamente perché Mrs. Glegg vedesse che si dava poco pensiero di lei. Se Wakem pensa di mandare suo figlio da un pastore, allora credetemi, non faccio una sciocchezza a mandarci anche Tom. Wakem è il più grosso briccone che il vecchio Harry abbia mai creato, ma conosce la misura del piede di tutti gli uomini con cui ha da fare. Ditemi chi è il macellaio di Wakem e io vi dirò dove dovete prendere la vostra carne. Ma il figlio dell'avvocato Wakem è un gobbo, disse Mrs. Pallet, che sentiva in tutto quell'affare un che di funebre. Quello è più che naturale di mandarlo da un pastore. Sì, disse Mr. Glegg, interpretando l'osservazione di Mrs. Pallet in maniera plausibile, quantunque falsa. Questo lo dovete tener presente, vicino Tulliver. Il figlio di Wakem probabilmente non si metterà negli affari. Wakem vuol farne un signore di quel poveraccio. Mr. Glegg, disse Mrs. Glegg in un tono da cui traspariva che la sua indignazione stava fermentando e ribollendo alquanto, sebbene la fosse decisa a mordere il freno. Faresti meglio a tenere la lingua a segno. Mr. Tulliver non ha alcuna voglia di sapere la tua opinione e nemmeno la mia. C'è della gente a questo mondo che la sa sempre più lunga di tutti gli altri. Bene, penserei quasi che voi siate di quelli se devo credere alle vostre chiacchiere, disse Mr. Tulliver ricominciando a scaldarsi. Oh, io non dico niente, disse Mrs. Glegg sarcastica. Nessuno mi ha chiesto il mio parere e io non lo do. Oh, sarà la prima volta allora, disse Mr. Tulliver. È la sola cosa che voi siate sempre pronta a dare. Sono stata troppo pronta ad imprestare, allora, se non troppo pronta a dare, disse Mrs. Glegg. C'è della gente a cui ho imprestato del danaro, che forse mi farà pentire di far prestiti ai parenti. Via, via, via, disse Mr. Glegg conciliante. Ma Mr. Tulliver non era uomo da ringhiottirsi una risposta per le rime. Avete avuto la vostra brava obbligazione, credo, disse, e ricevuto il vostro 5%, parenti o non parenti. Sorella, disse Mrs. Tulliver, supplichevole, bevi il tuo vino e permetti che ti offra un po' di mandorle ed uva passa. Bessie, mi dispiace per te, disse Mrs. Glegg, con l'animo su per giù di un botolo pronto a cambiare indirizzo ai suoi ringhi, volgendoli contro l'uomo che non porta bastone. È una povera scappatoia mettersi a parlare di mandorle e di uva passa. Dio mio, sorella Glegg, non essere così rissosa, disse Mrs. Pallet, cominciando un pochino a piangere. Ti può prendere un attacco a diventare così rossa dopo mangiato. E poi siamo appena uscite dal lutto tutte insieme e tutte abbiamo portato le vesti col crespo e le abbiamo appena smesse. Questo non sta bene tra sorelle. Lo crederei anch'io che non va bene, disse Mrs. Glegg, passa tutti i limiti che una sorella ne inviti un'altra in casa propria per litigare con lei e per insolentirla. Calma, calma, Jane, sì, ragionevole, disse Mr. Glegg. Ma mentre questi stava parlando, Mr. Tulliver, che non ne aveva ancora dette abbastanza per sfogare la propria collera, tornò a sbottare. Chi è che vuol baruffare con voi? Proruppe. Siete voi che non potete lasciare in pace la gente, ma dovete sempre tormentarla. Io non litigherei mai con le donne se sapessero stare al posto loro. Il posto mio? Ah, questa è bella! Disse Mrs. Glegg, strillando sempre di più. C'è della gente migliore di voi, Tulliver, che ora è in pace nella propria tomba e mi trattava con ben altro rispetto. Per quanto io abbia un marito che se ne sta lì seduto a vedermi insultare da chi non avrebbe mai avuto una simile possibilità se nella nostra famiglia non ci fossero state delle ragazze che si sono maritate come non dovevano. Se parlate di questo, disse Mr. Tulliver, la mia famiglia vale quanto la vostra, anzi di più, perché non ci sono delle donne perfide e indemoniate. Bene, disse Mrs. Glegg balzando dalla propria seggiola. Io non so se tu creda che sia una bella cosa, Mr. Glegg, di startene seduto lì a sentirmi insolentire, ma io in questa casa non ci rimango un minuto di più. Tu puoi restare qui e tornare poi a casa con la carrozza. Io me ne vado a piedi. Amica mia, diceva Mr. Glegg in tono melanconico mentre seguiva la moglie fuori della stanza. Mr. Tulliver, come hai potuto parlare così? Disse Mrs. Tulliver con le lacrime agli occhi. Ah, lasciala andare, disse Mr. Tulliver, ancora troppo acceso perché una crisi di lacrime bastasse a intenerirlo. Lasciala andare, e quanto prima tanto meglio, non le tornerà così presto la fantasia di mettermi il piede sul collo. Sorella Pallet, disse Mrs. Tulliver disperata, credi che otterresti qualcosa se le corressi dietro a cercare di calmarla? Meglio di no, disse Mr. Dean. Vi metterete d'accordo un altro giorno. Allora, sorelle, vogliamo andare a vedere i bambini? Disse Mrs. Tulliver, asciugandosi gli occhi.